quando tremore grigie del boss, quanta paura che ho. 20 grammi per me sono un peso da che, con le mie ali vado alla ricerca di sviminio, se no oggi mi arrangerò, quel cassonetto va per me. Troppo grandi per me, cerco di meglio e proprio sotto al cassonetto un po' di couscous e del riso a ragù, che scorpacciata mi farò. Ma poi col micio parlò. Io non ti